in primo piano. Buona giornata e buona domenica da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Vediamo quali sono gli argomenti in evidenza sulle prime pagine dei giornali questa mattina. Naturalmente la vicenda degli assenteismi ai vigili di Roma e le conseguenze, le reazioni della politica, del governo e della politica tengono ancora banco, ma c'è un altro dibattito che oggi anche trova spazio sulle prime pagine dei giornali ed è riferito alle misure varate dal governo ma ancora da approvare in via definitiva che riguardano i reati tributari e che potrebbero, e qui bisognerebbe usare due o tre condizionali, potrebbero essere un vantaggio, una possibilità per Silvio Berlusconi di vedersi revocata la condanna in via definitiva. Il condizionale è d'obbligo. Della vicenda si occupa con particolare enfasi Repubblica, che titola: nel condono fiscale spunta una norma salva Berlusconi, il premier nega, è il titolo principale di Repubblica, ma se è così cancelleremo il provvedimento, il decreto depenalizza chi evade fino al 3% dell'imponibile. Allora qui non è propriamente un condono fiscale, si tratta di una norma che rivede di un decreto legislativo in attuazione della delega fiscale della legge di riforma del fisco che è stata varata l'anno scorso e che viene via via attuata. Questo decreto si occupa di reati tributari. Tra i reati tributari, appunto, e il trattamento, le sanzioni per i reati tributari, viene prevista anche una soglia di non punibilità al 3% quando questo, appunto, quando il reato è l'illecito è sotto il 3%. La vicenda viene appunto ripresa da diversi giornali, la commentiamo da Repubblica, il lavoro è di Liana Milella che spiega appunto il giallo del salva Silvio nella riforma del fisco, sarà libero di candidarsi, ma Renzi che dice sono pronto a cambiare. Berlusconi potrebbe beneficiare di questa depenalizzazione, il premier dice non è vero perché è condannato in via definitiva. Naturalmente qui ci sono pareri contrastanti, la norma, come spesso accade, a parte che corre l'obbligo di precisare che non è ancora vigente, la norma non è chiarissima perché è riferita appunto già a una materia non chiarissima che è quella appunto del fisco. Renzi dice: a me non risulta affatto che sia una norma salva Silvio, lui ha una condanna definitiva, non mi pare realistico che una nuova legge possa cancellare una condanna passata in giudicato, ma se davvero dovesse essere possibile sono pronto a bloccare la legge e a cambiarla. Il giallo c'è tutto, scrive Liana Milella, lo scontro politico tra Ministero dell'Economia e Palazzo Chigi pure, si dividono anche gli avvocati di Berlusconi. Secondo Franco Coppi la legge si può applicare a Berlusconi, basta il noto incidente di esecuzione, cioè quello che consente di cambiare anche una sentenza definitiva quando viene approvata una legge molto più favorevole al condannato. Invece Ghedini, storico difensore dell'ex premier, la pensa all'opposto ed è convinto che il piccolo comma in questione si applichi solo alle dichiarazioni infedeli, non sarebbe quindi utilizzabile ai delitti che hanno visto condannato l'ex cavaliere. Il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Sabelli, è della stessa opinione di Coppi, dice di non aver dubbi sul fatto che la non punibilità si applichi anche ai reati di frode e che possa avere una efficacia retroattiva. Enrico Zanetti, che è il sottosegretario dell'economia, viene intervistato nelle stesse pagine 2 e 3 di Repubblica questa mattina e dice appunto difende il decreto delegato sul fisco, ma sulla parte che depenalizza la frode fiscale non ha dubbi, non si può trattare allo stesso modo chi compila una dichiarazione infedele e chi compie un reato di frode, questa parte va cambiata. Non pensa che in questo modo il decreto rischi di trasformarsi in una operazione di condono? Non è così, spiega Zanetti, lo schema di decreto, ricorda Zanetti appunto, è uno schema, cioè deve essere ancora approvato in via definitiva ed è in attuazione della legge delega della riforma del fisco, lo schema di decreto dice il sottosegretario, è un buon provvedimento che migliora l'inquadramento di una fattispecie complessa come quella dell'abuso di diritto, cioè l'abuso di diritto sarebbe l'utilizzo di norme fiscali solo per sfruttarne i vantaggi ma senza nessun motivo economico per un loro reale utilizzo. L'abuso di diritto, dice questo decreto, questo schema di decreto, migliora l'inquadramento dell'abuso di diritto facendo fare passi avanti al nostro ordinamento e sul piano delle sanzioni, di questo stiamo trattando, procede verso una opportuna revisione delle sanzioni di carattere penale. E allora lo incalza Roberto Mania, ma questo è il punto, come si chiama allora se non è un condono? Dice la riforma interviene sul fronte delle sanzioni penali con l'obiettivo di circoscriverle alle situazioni più rilevanti, evitando l'effetto perverso di ingolfamento delle procure ed evitando anche all'amministrazione finanziaria di segnalare alla magistratura comportamenti che molto spesso non portano ad alcuna condanna, ma che creano problemi all'imprenditore. Questo dice non c'entra nulla con la frode, sono d'accordo, infatti per noi di Scelta Civica è sempre stato chiaro che la depenalizzazione non poteva riguardare i reati di frode. Non c'è il rischio, è la domanda finale, che il decreto rappresenti un salvacondotto anche per Silvio Berlusconi, condannato per frode fiscale? Non lo so, è la risposta di Zanetti. Non so se il reato di frode che gli è stato contestato sia sotto il 3% della sua soglia reddituale. Ma ciò non voglio nemmeno saperlo, perché ciò che conta, spiega il sottosegretario, sono i principi e questa franchigia, cioè questo 3% di non punibilità, non può valere per la frode fiscale. Insomma, un polverone su questo schema di decreto che è stato varato appunto nei giorni immediatamente precedenti al Natale, proprio la vigilia di Natale, che ora dovrà essere definitivamente approvato, quindi non è ancora operativo, non è ancora efficace, ma nel quale potrebbe esserci una opportunità per Silvio Berlusconi di riaprire la sua vicenda giudiziaria. Potrebbe, ripeto, perché anche il dibattito appunto tra i vari giuristi, gli stessi difensori di Berlusconi, sono divisi sul punto. Secondo alcuni la norma può essere applicata al caso di Berlusconi, secondo altri no. Questo, diciamo, come notizia che trovate, poi l'abbiamo letta da Repubblica, ma la stessa vicenda viene segnalata in prima pagina dal Corriere della Sera, ad esempio. Reati fiscali, lo scudo del 3% potrebbe aiutare Berlusconi, il lavoro di Corina De Cesare e Luigi Ferrarella, che appunto parla di un caso, è un caso il decreto di Natale sul fisco che esclude il reato per tutti i delitti in materia di dichiarazione quando l'importo delle imposte evase non è superiore al 3% del reddito imponibile dichiarato. L'interpretazione di 5 parole del decreto potrebbe rendere Berlusconi di nuovo incensurato senza modificare l'articolo di legge sulla frode fiscale per cui fu condannato. Questo però, appunto, il fatto che il decreto non preveda di intervenire sulla norma che è stata utilizzata per appunto che ha portato alla condanna di Berlusconi già genera diverse perplessità. Vedremo poi come i giuristi, ma soprattutto la versione definitiva del provvedimento, dipaneranno questa matassa. Molto spazio sui giornali di questa mattina, su diversi giornali, anche alla questione dell'emergenza migranti. L'affare delle navi dei migranti è il titolo più evidente, anche se non è il più in alto. Quello più in alto nella prima pagina del Corriere della Sera è questo dei reati fiscali relativo a Berlusconi, che vi ho letto, ma in centro pagina il titolo più evidente è appunto l'affare delle navi dei migranti. Vecchi cargo lasciati alla deriva verso l'Italia costano 200.000 dollari, fruttano 2 milioni, quindi dal punto di vista banalmente economico un affare, appunto l'affare delle navi dei migranti. Trattative con Atene e Ankara per fermarle, l'Unione Europea annuncia che la lotta ai trafficanti sarà in cima alle priorità. La vicenda di queste navi dei migranti che sono aumentate e sostanzialmente delle falle che ci sono nel programma comunitario di contrasto al traffico di uomini, viene ben spiegata oggi da Avvenire, che proprio alla vicenda dei migranti dedica il suo titolo principale: Migranti, UE inerte, nuovo regime. Si fa riferimento appunto al passaggio all'operazione comunitaria rispetto a Mare Nostrum, che era stata quella gestita dall'Italia direttamente di contrasto ai clandestini e di salvataggi anche poi per i clandestini, per questi migranti che venivano lasciati alla deriva a bordo di queste carrette del mare. Dice: nuovo regime, scrive Avvenire, ma tutto il lavoro viene fatto dall'Italia. Altri sbarchi: mentre la Marina termina le operazioni di soccorso, i trafficanti ora scelgono nuove rotte e in Germania c'è l'allarme xenofobia. Ci sono poi altre notizie oggi anche dalla Germania, in particolare su queste dichiarazioni, che su queste considerazioni che sarebbero state fatte da Angela Merkel e dal suo ministro Schäuble per una possibile uscita della Grecia dall'euro, eventualità che non sarebbe più vista come apocalittica dal governo di Berlino. Ma restiamo sui migranti ancora per qualche secondo prima di lasciare la linea alle previsioni del tempo. Scrive Nello Scavo su Avvenire: perché il piano europeo appunto è già fallito. In 2 mesi l'Italia ha salvato il doppio delle persone rispetto alla missione UE e il dispositivo UE è un flop. È un flop anche perché arretra fino a 30 miglia dalla costa la sorveglianza e la vigilanza. Questo fa sì che poi si moltiplichino questi episodi appunto di lasciare alla deriva queste carrette del mare. In primo piano. E allora bentornati ancora, buona domenica da Mauro Meazza, bentornati alla nostra rassegna stampa. Vi stavo segnalando come su diversi giornali si dia evidenza alle questioni dei migranti. Il nuovo dispositivo di prevenzione e di salvataggio, che non è più l'operazione Mare Nostrum che prima era gestita dall'Italia, ma che l'Italia non è più in condizioni naturalmente di sopportare, comprensibilmente, anche perché si tratta un po' di fare il lavoro per tutta quanta la massa di persone che fugge da situazioni di guerra, di guerre civili e quant'altro, dall'Africa, dal Nord Africa e dal Medio Oriente. Bene, il nuovo dispositivo UE non funziona, non sta procurando gli effetti sperati. Lo spiega bene appunto, vi dicevo, Avvenire, che alla vicenda dei migranti dedica il suo titolo oggi principale, e Nello Scavo dice appunto, ci riferisce che su 6 natanti messi per ora a disposizione, questa forza che doveva essere internazionale, si parla appunto di una quasi totalità degli interventi data alle motovedette italiane, quindi diciamo che la nostra marineria continua a fare la maggior parte, la gran parte del lavoro, e il dispositivo, dice Nello Scavo, è un flop, il dispositivo comune della Unione Europea, lo dicono i numeri dei primi 2 mesi di attività: 16.234 migranti, 124 sbarchi, 62 arresti, nessun calo nel flusso migratorio irregolare, e i trafficanti hanno rapidamente mutato strategia per moltiplicare gli affari, aggirando le norme che avrebbero dovuto scoraggiare gli scafisti. Perché i mezzi coordinati dall'agenzia europea Frontex pattuglieranno pressoché in solitudine un'area assai ridotta del Mediterraneo, intervenendo entro le 30 miglia dalla costa, e quindi salvo interventi urgenti che vanno fatti entro le 110 miglia. E le statistiche su queste fasce di pattugliamento, spiega sempre Nello Scavo su Avvenire, rivelano come l'arretramento dei soccorsi non solo mette a maggior rischio le vite dei migranti, ma fa il gioco dei trafficanti, che naturalmente poi lasciano, appunto come abbiamo visto succedere in questi giorni, le navi alla deriva con il loro carico. La vicenda dei migranti, vi dicevo, è ripresa anche dal Corriere della Sera, l'affare delle navi dei migranti con i vecchi cargo lasciati alla deriva verso l'Italia, mentre Resta molto alta la questione degli statali, ad esempio il Messaggero quotidiano romano, come sapete la vicenda, le polemiche sull'assenteismo dei dipendenti pubblici in generale sono partite proprio da questo caso di malattie record per nel giorno di Capodanno per i vigili di Roma. E allora il Messaggero riprende tutto questo con il suo titolo principale: statali in malattia, costi record, in 12 mesi persi 30 milioni di giorni di lavoro. Un certificato medico su tre è per il lunedì. L'INPS si candida e dice: a noi i controlli, si spenderà la metà per i vigili assenti. Sono in arrivo gli ispettori del governo. Anche per il Messaggero dà spazio al dibattito sul caso del 3% del decreto, dello schema di decreto per essere puntuali, perché ancora non è un decreto, non è una norma in vigore, dello schema di decreto secondo il quale potrebbe esserci una revisione della condanna, un ritorno sulla condanna definitiva, in via definitiva, Silvio Berlusconi, quindi con un poi reintegro nella vita politica e tutte quante le conseguenze del caso. Evasione, scoppia il caso 3%, può applicarsi a Berlusconi con la norma benefici per l'ex cavaliere, ma Renzi dice blocco tutto. Questo sul Messaggero. In tutt'altro modo, per restare invece sulle questioni dei migranti ancora, il giornale dà spazio alle questioni dei clandestini con un tono polemico nei confronti dell'Unione Europea. Mai così tanti clandestini, l'Europa ci sfotte. Italia sotto attacco. Nel 2014 170.000 sbarcati sulle nostre coste è un record. Bruxelles dice guerra ai trafficanti di uomini, ma è una presa in giro. Gli scafisti, ora abbandonano le navi e l'Unione Europea lo sa. Nessuno fermerà l'invasione. Sul giornale poi una vicenda che appassiona, una polemica politica che appassiona diverse testate. Renzi, il volo di Stato è un caso, vacanze agitate. Di che si tratta? Allora, Renzi e famiglia a sciare con l'aereo di Stato è il titolo principale di Libero. Per arrivare prima in montagna il premier requisisce un Falcon a Roma, lo dirotta su Firenze, raccatta i suoi e atterra in segreto ad Aosta. Questo il titolo di Libero. A chi lo critica risponde: questione di sicurezza. La vicenda nasce dalla una serie di dichiarazioni del movimento, di alcuni deputati del Movimento 5 Stelle, polemica sulle vacanze del premier, segnala anche la prima pagina della Stampa. I grillini attaccano Renzi, volo di Stato per le vacanze, la replica del premier, protocollo di sicurezza. Da Libero appunto, nelle pagine interne, Renzi requisisce un aereo per andare con i suoi a sciare. Il 30 dicembre è partito da Roma su un Falcon 900, ha fatto scalo a Firenze e poi è atterrato ad Aosta. E poi polemicamente Mario Giordano, il titolo che accompagna l'articolo di Mario Giordano, chiosa: loro in ferie, noi paghiamo. E si ricorda anche che le regole sui voli di Stato sono state precisate in una circolare, in un riassunto alle amministrazioni dal governo Letta, da Enrico Letta, le regole in una carta di Palazzo Chigi: l'aereo si può utilizzare solo per motivi istituzionali e in mancanza di alternative. Peraltro la precisazione di Palazzo Chigi è che le questioni di sicurezza avrebbero appunto comportato la necessità di ricorrere al volo di Stato per gestire appunto la sicurezza del Presidente del Consiglio, e che tutte le spese naturalmente connesse all'attività sciistica del Presidente del Consiglio e della famiglia sono state pagate personalmente dal Presidente del Consiglio. Questo nella replica che Palazzo Chigi ha diffuso ieri a questa accusa mossa dai 5 Stelle. Allora, ancora in tema invece di assenteismo degli statali, La Stampa, vigili assenteisti, il governo e Marino sono pronti alla stretta, nuove regole per i controlli medici e Furlan della CISL che dice chi ha sbagliato paghi. Una notizia, una buona notizia in qualche modo sulla Stampa e su molti altri giornali, saldi, partenza boom al nord, Torino, Milano, Firenze, lunghe code e affari per archiviare la crisi. Sarebbero partite bene quindi nella giornata di ieri le vendite in saldo che caratterizzano questo periodo dell'anno, può essere un segnale di ripresa in qualche modo o comunque di ritorno ai consumi interni, questi consumi interni che sono crollati come sappiamo negli anni della crisi. Però sulla vicenda degli assenteismi degli statali vi segnalo un lavoro di Paolo Baroni sulla Stampa, la Stampa appunto che dedica le sue pagine 2 e 3 alle questioni degli statali assenteisti, segnalandoci che il governo è pronto ad accelerare, così come fanno altri giornali, il governo accelera su mobilità e licenziamenti. Il sindaco di Roma che dice se qualcuno ha truffato siamo pronti a lasciarlo a casa, e poi la malattia che pare colpisca soprattutto a dicembre, già nel 2009 le assenze nel mese di Natale sfioravano il 35%, ci ricorda la Stampa, ma il lavoro più forse curioso è quello che viene proposto da Paolo Baroni a pagina 3 della Stampa, lavorare il meno possibile, ecco come si fa. Alcune leggi e diversi contratti di categoria permettono di restare a casa e intascare regolarmente lo stipendio, dal permesso retribuito per i volontari del soccorso speleologico a quello per chi fa il vaccino contro il tetano. E nell'articolo appunto si spiega che ci sono tutta una serie di permessi retribuiti che sono permessi però come dire, per motivi anche comprensibili e anche nobili, che però se vengono utilizzati in modo doloso permettono anche volendo di restare a casa quasi tutto un intero anno senza subire alcuna conseguenza per il posto di lavoro. Un caso appunto per legarci alle questioni fiscali di cui riferivamo a proposito del dibattito su Silvio Berlusconi, un caso di abuso di diritto. Questa volta l'abuso sta nell'abuso di norme che sono pensate per finalità assolutamente indiscutibili, ad esempio i permessi che vengono concessi dalla legge 104, pure citati nell'articolo di Baroni, e che consentono 3 giorni al mese di permesso retribuito per occuparsi di un familiare, per assistere un familiare disabile, una norma assolutamente legittima e che però appunto se incastrata dolosamente, maliziosamente con altre, può comportare questi record di assenza dal lavoro. Diritti reali e uso scorretto, spiega infatti Paolo Baroni, dice non c'è alcuna intenzione di intaccare il valore di norme che anzi, se applicate correttamente, consentono attività tutte a tanti italiani, attività più che meritorie. Però queste norme messe tutte in fila teoricamente consentono di assentarsi dal lavoro anche per mesi senza incorrere in sanzioni, e spiega l'ordinario di diritto del lavoro, procuratore della LUIS Roberto Pessi, se il signor Caio decide di non lavorare per 365 giorni in un anno potrebbe anche riuscirci. Vado per sommatoria, ci sono contratti come quello della grande distribuzione che consentono assenze per malattia per 175 giorni in un anno senza incorrere in sanzioni, se aggiungiamo 52 sabati, 52 domeniche, 35 giorni di ferie, 36 di assenze legate all'assistenza del parente handicappato, poi le donazioni di sangue, i giorni concessi come volontario del servizio civile, si può arrivare praticamente a zero. Ripeto, sono dei ragionamenti che vanno un po' per assurdo, perché è ovvio che il diritto di poter assistere per 3 giorni al mese con permesso di attribuire un familiare malato è una norma assolutamente meritoria e difendibilissima, ma evidentemente poi c'è qualcuno che ne abusa, che ne fa un cattivo uso, e questo fa sì che poi si arrivi anche a dei fenomeni come l'assenteismo monster che abbiamo dovuto registrare. appunto a Capodanno a Roma. Una brevissima citazione per la prima pagina del Sole 24 Ore, su cui poi torniamo dopo la viabilità, che ci riferisce come le riforme previste dal 2011 a oggi siano state attuate per meno della metà, al 47%. Ci sono ancora 585 decreti da varare, 119 per la sola legge di stabilità. In primo piano. E ancora buona domenica da Mauro Meazza, buona domenica naturalmente anche a Carmelo Lauricella, che questa mattina mi assiste in regia, rende possibile tutto questo, rende possibile che la mia voce vi possa raccontare cosa trovate in evidenza sui giornali di questa mattina. Allora, eravamo arrivati a segnalare il titolo principale del Sole 24 Ore, del nostro quotidiano: riforme attuate al 47%, più veloce lo smaltimento dell'eredità Monti, insomma i decreti che erano da varare per attuare norme di fine 2011 e 2012, cresce però il numero poi delle nuove leggi che impongono altri decreti attuativi. E casa poi parte nel caos la riforma del catasto, perché c'è una difficoltà nello stimare i valori degli immobili, lo spiega oggi il Sole 24 Ore. Allora, un passaggio sulla questione dell'attuazione dei decreti. Come sapete, l'attuazione dei decreti è tutt'altro che una questione che interessa solo gli esperti, è in realtà proprio la differenza che passa tra l'aver varato una disposizione e come dire, renderla davvero efficace, e quella di lasciarla invece soltanto sulla carta. Ecco perché questo particolare rating del Sole 24 Ore viene ripetuto periodicamente, proprio per verificare quante norme sono delle grida di tipo manzoniano, appunto di memoria manzoniana, e quante invece si tramutano in norme davvero operanti. Si segnala questa mattina che le riforme avviate da governo Monti, governo Letta, sono abbastanza hanno migliorato, diciamo, sono abbastanza vicine alle percentuali accettabili per le riforme varate da Monti, però parliamo di anno 2011-2012, siamo al 75% dei decreti previsti che sono stati varati, per quelle invece decise dal governo guidato da Letta siamo al 50%. E l'attuazione delle misure invece del governo Renzi è oltre il 15%. Un grande tabellone nelle pagine 2 e 3 poi fa il punto sui provvedimenti. Spicca in positivo l'attuazione molto avanzata del decreto cosiddetto Salva Italia. Fu il famoso decreto varato ai primi di dicembre 2011, tra l'altro contenevano le nuove norme sulle pensioni, tra le altre cose, nonché anche l'IMU. Siamo a 54 decreti attuati, varati, 9 ancora da attuare, quindi una percentuale molto alta. Spicca invece come dire, lo sblocca Italia tutto da attuare, qui veniamo invece ai giorni nostri, il decreto è del 13 di settembre, sono stati varati soltanto 2 decreti, ne mancano 70 per completare il lavoro. Complessivamente il governo attualmente in carica si è dato una dote di 374 provvedimenti attuativi da varare, per ora siamo a 39, siamo quindi al poco sopra il 10%. Ma veniamo invece alla questione del catasto. Allora, come sapete, nella riforma del fisco, quella stessa dove sta poi l'intervento, lo schema di decreto legislativo che oggi fa tanto discutere sulla possibilità di offrire o no una TU a Berlusconi, ecco, in quella stessa riforma del fisco è prevista anche la riforma del catasto, il catasto che deve passare tra le altre cose al conteggio in metri quadri e avvicinare le rendite catastali ai valori di mercato. avvertono però Saverio Fossati e Gianni Trovati e anche Cristiano Dell'Oste oggi sul Sole 24 Ore, c'è il rischio che le nuove rendite siano sovrastimate, siano eccessive, insomma. Perché? Perché in 5.000 comuni su un totale di 8.000, quanti sono i comuni italiani, non ci sono compravendite sufficienti per determinare i valori di mercato. Quindi, detto molto in sintesi e brutalmente riassumendo il lavoro dei colleghi, si rischia di applicare una funzione matematica, un algoritmo, come va di moda in questi anni, però presumendo appunto dei valori che non sono reali, e quindi rendite sovrastimate, appunto rendite eccessive, o anche magari poi rischi di contenzioso. Questo può essere appunto il rischio che accompagna l'attuazione del nuovo catasto, che è in corso, è stato varato il primo di una serie di decreti attuativi, altri poi dovranno seguire. E allora poi un altro passaggio sul nostro futuro di cittadini contribuenti e anche pensionati o pensionandi, perché questa mattina il Corriere della Sera ospita una intervista a Guttgeld, che è, come sapete, il consigliere economico del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il quale ritorna sull'idea della pensione anticipata e rimborso a rate. Era un'idea che era già circolata con il governo precedente, cioè sostanzialmente un anticipo del lavoratore che si colloca in pensione, prende in anticipo la pensione e poi provvede a restituirla negli anni successivi a rate. Convinceremo l'Europa che si può fare, dice oggi Guttgeld al Corriere della Sera. Spiega nell'intervista, che è realizzata da Antonella Baccaro, la riforma ha messo sotto controllo il sistema, allo stesso modo in cui sono sotto controllo i costi della sanità. Tutto questo crea una dinamica di lungo termine della spesa pubblica migliore di quella di altri paesi, ma questa dinamica non ci viene riconosciuta, perché il sistema di valutazione europeo guarda la contabilità anno per anno e non tiene conto dei risparmi di lungo termine. Quindi, mi viene chiesto, quindi con il nostro sistema, che ormai è contributivo, se pensiono anticipatamente un lavoratore con un trattamento inferiore a quello che gli spetterebbe, sto solo anticipando una spesa che recupererò dopo con un rimborso a rate, ma non sto aumentando la spesa. Ma l'UE, la UE guarda solo la spesa attuale, quindi vede in realtà un aumento di spesa, ma si tratta di una sorta di anticipo, di pensione erogata in anticipo, di prestito che lo Stato fa. State già discutendo di questo in sede europea? Lo faremo. Anticipare la pensione, sia pure con un trattamento inferiore, a molti oggi potrebbe andar bene. Vogliamo renderlo possibile. Farete, gli chiedono a Joram Guttgeld, il consigliere economico di Matteo Renzi, un prelievo sulle pensioni più alte? Non è in agenda, è la secca risposta di Guttgeld al Corriere della Sera di questa mattina. Sulle pensioni e in generale sui piani economici del governo, anche Marco Rugari sul Sole 24 Ore di questa mattina, sulle pensioni appunto. C'è un pressing da parte della maggioranza, riferisce Rogari, per rendere più flessibili le uscite pensionistiche, quindi combacerebbe con quanto anche questa flessibilità in genere potrebbe accogliere anche la proposta, l'idea segnalata da Guttgeld dal Corriere della Sera, ma c'è la resistenza da parte dello stesso Presidente del Consiglio, scrive Rogari, da Palazzo Chigi c'è più di un dubbio sull'opportunità di riaprire il cantiere previdenziale, e il Premier, che da sempre è contrario a misure invasive sulle pensioni, ha subito fatto capire che la nomina di Boeri nominato presidente all'INPS, non rappresenta il primo passo verso nuovi interventi. L'impianto della riforma Fornero verrebbe preservato in ogni caso. Così Rogari sul Corriere della Sera. Insomma, sulle pensioni come dire, c'è sempre molta attenzione da parte di tutti noi, le regole per andare in pensione, ma anche la possibilità di un'erogazione anticipata della pensione, così come lascia intuire Guttgeld. Queste sono tutte ipotesi che fanno discutere, preoccupano anche le ipotesi di prelievi, revisioni degli assegni che vengono già erogati, le pensioni già erogate. Sono tutte discussioni che però non hanno al momento alcuna fondamento normativo, non ci sono appunto fondamenti normativi di sorta. Una ultima segnalazione dal Sole 24 Ore, questa volta per i saldi alimentari salvati dal Natale. I primi 15 giorni di dicembre hanno fatto temere il peggio, riferisce Emanuele Scarci, ma poi c'è stata una svolta perché promozioni e tredicesime hanno invertito il trend. Ieri primo giorno di saldi, partenza lenta, qualche coda, ma non c'è il pienone. A nord atteso un incremento degli affari appunto per i saldi, non così a sud. A Palermo c'è preoccupazione tra i negozianti, ci riferisce Nino Amadore. In Sicilia previsioni di segno negativo. E poi la segnalazione giunta ieri da Federalberghi, una riduzione di italiani in vacanza per l'Epifania, una flessione che è calcolata nel 13,1%, quindi un 1.560.000 persone, gli italiani che effettueranno la vacanza per il ponte dell'Epifania erano stati 1.800.000, e di questi la stragrande maggioranza, cioè quelli che andranno in vacanza meno dell'anno scorso per l'Epifania, però sceglieranno comunque l'Italia come meta per il loro viaggio. Abbiamo ancora credo un paio di minuti scarsi, allora ritorno sulla vicenda dell'assenteismo dei parlamentari, ma questa sull'assentismo, pardon, degli statali, ma per segnalarvi la provocazione che lancia Carlo Tecce sul Fatto Quotidiano di oggi: assenteismi onorevoli che licenziano tutti ma non lavorano mai. E segnala appunto il caso di Daniela Santanchè, che ha detto: vanno cacciati i dipendenti pubblici che taroccano il certificato medico, ma lei diserta l'aula il 77,6% delle volte. E poi si fanno una serie di casi appunto sulla presenza, insomma presenza forse eccessivo, di alcuni parlamentari, sia parlamentari al Senato o alla Camera, sia europarlamentari, che certo non brillano per presenza su quello che possiamo a buon diritto considerare il loro posto di lavoro. E qui appunto il 77,6% di assenza da Santanchè, ma è ben lontana dai primatisti, che si segnalano appunto Antonio Angelucci con il 99% di assenze, così come anche Nicola Ghedini, l'altro senatore, Dennis Verdini 91% di assenze, precisando, dice Carlo Tecce sul Fatto, che questi dati di Open Polis riguardano la presenza durante il voto. Naturalmente non c'è un obbligo di cartellino per i parlamentari, non c'è da timbrare un cartellino, quindi il fatto che siano più o meno presenti nell'edificio poi magari non vuol dire che siano presenti al momento del voto. Spesso si decide anche di uscire al momento del voto. Precisato questo, però resta comunque una certa perplessità nel leggere che ci sono degli europarlamentari che si sono fatti vedere su 82 occasioni di voto a Strasburgo soltanto 3 volte. È il caso di Toti, ma è anche il caso di Matteo Salvini, che appunto si sono magari anche distinti tutti questi parlamentari per aver richiesto misure esemplari contro l'assenteismo degli statali, ma come dire, non sembrano poi brillare per una assiduità nei palazzi della politica. Un'ultimissima segnalazione dalla prima del Fatto Quotidiano, che torna sulla vicenda di Berlusconi: frode fiscale, Renzi salva Berlusconi, ne abbiamo parlato lungamente. E a questo punto dalla parte mia una buona domenica. Grazie.